Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi come sempre Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria: partiremo dall'euro e dalla vicenda greca, sempre sotto pressione l'euro, non tanto nei confronti del dollaro, nel senso che lì diciamo, c'è il confronto tra due debolezze, siamo a 1,35, ma soprattutto nei confronti del franco svizzero, che in questo momento viene considerata una moneta più solida. Siamo sempre ai minimi storici tra l'euro e il franco svizzero, a quota 1,43. Il motivo si chiama di nuovo Grecia e soprattutto le perplessità, per essere buoni, tedesche, nel creare una linea di aiuto, un cordone sanitario nei confronti dei conti pubblici greci e delle difficoltà che potrebbero ancora emergere. Di questo parleremo in apertura, cioè sia dell'euro che della posizione tedesca. Poi avremo un approfondimento, come sempre, sulla borsa. Vi dico subito che è positiva di uno 0,6% a Milano, più 0,7% Parigi e anche Francoforte, più 0,6% Londra, più 0,4% il Dow Jones. Tra i titoli, Saipem continua a essere molto forte, intere sedute che il titolo cresce, più 3,7%, il 2,2% lo guadagna Steam Microelectronics, il 2,1% Pirelli, l'1,80% il rialzo di CIR e di Exor, Finmeccanica più 1,5% come Atlantia, l'1,3% lo guadagna Ansaldo, l'1,1% Autogrill e Azimut, l'1% Eni e anche Campari, ma anche Mediaset e Fiat, lo 0,80% è il rialzo di Snam Rete Gas, ma anche di Unicredit e di Prismian e anche di Bulgari e anche di Mediolanum. Così chiudiamo. Il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, Buzzi Unicem, meno 3,2%, Unipol meno 1%, Ubibanca meno 0,90%, come Intesa San Paolo, lo 0,80% lo perde Telecom e anche Geox, lo 0,70% il calo di Mediobanca. Dicevo, dopo la borsa tratteremo il tema delle fonti e delle energie rinnovabili, poi i consumi. Per quello che riguarda invece i consumi italiani, il rapporto della Confcommercio è uscito durante fine settimana, oggi viene riaggiornato, insomma c'è un calo molto forte nei consumi, non riparte la domanda interna cosiddetta, e chiuderemo poi sul rapporto invece sulle politiche per la famiglia, quale welfare per le famiglie. Oggi presentato a Milano il rapporto famiglia del CISF, che è il Centro Internazionale di Studi della Famiglia, 4.000 interviste su un campione rappresentativo di famiglie italiane. E insomma, si capisce anche quanto sia il legame tra il welfare e i pochi figli che fanno le famiglie italiane, il costo reale dei figli, il 35% della spesa familiare totale se ne va proprio per i figli, il costo mensile di mantenimento dei beni indispensabili dagli 0 ai 5 anni di 317 euro, e poi c'è il costo mensile di accrescimento, ossia l'esborso reale, si arriva a 800 euro. Come arrivano le famiglie a fine mese, insomma, e anche l'intervento del Presidente della Camera Gianfranco Fini, che ha detto attenzione, lo Stato sociale si deve basare sulle opportunità, su un welfare delle opportunità. Questi temi che tratteremo oggi, 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Allora, dicevamo dell'euro ai nuovi minimi sul franco svizzero, era scivolato anche nei confronti del dollaro, ma poco, 1,39,95, insomma pesa il disaccordo sulla Grecia, ma di questo parleremo subito. L'Euribor è un po' che non ne parliamo, il tasso di rifinanziamento, quello a tre mesi, quello che le banche applicano tra di loro per i prestiti trimestrali, è sceso a un nuovo minimo storico, allo 0,63%. Dato migliore arriva dall'America sulla vendita di case esistenti, a febbraio meno 0,6, c'è ancora un calo ma è migliore rispetto alle attese. E poi oggi Obama ha firmato, praticamente l'ha fatto 10 minuti fa, la legge sulla riforma della sanità, quindi l'estensione, ne abbiamo ampiamente parlato, a 32 milioni di americani che ancora non ce l'hanno, dell'assicurazione, un costo di 940 miliardi in 10 anni. E poi, come già alcuni giornali riportavano ieri, Obama nel firmare la legge ha detto firmo questa legge pensando a mia madre che dovette combattere a lungo, malata di cancro, proprio contro le compagnie di assicurazione. La Repubblica Argentina promuove un'offerta pubblica di scambio sulle obbligazioni emesse prima del 2005. Allora qui ci sono c'erano 450.000 italiani coinvolti con 14 miliardi di euro. Non sappiamo bene quanti poi abbiano invece fatto una specie di accordo, abbiano accettato l'accordo proposto anni fa dalla Repubblica Argentina, sconsigliato dalle banche italiane, dall'ABI. Comunque, praticamente l'Argentina offre nuove obbligazioni con due possibili opzioni, come opzione discount e opzione par. L'obiettivo dell'operazione è quello di ristrutturare e estinguere tutte le obbligazioni in sofferenza. Di questo immagino si occuperà, anzi ne sono sicuro, anche la nostra Deborah Rosciani con Salvadanaio. Qualche notizia in breve che riguarda invece l'Italia. L'INPS, la lotta all'evasione contributiva, cioè chi non paga i contributi per i dipendenti, ha portato a un aumento dei crediti del 26%, degli incassi del 26%, e vanno meglio del previsto. Gli incassi complessivamente sono stati 865 milioni nei primi due mesi del 2010, con un più appunto 26% rispetto ai primi due mesi del 2009. La Regione Lombardia ha previsto un voucher da 350 euro sotto forma di servizi e buoni acquisto per chi è in cassa integrazione in deroga. Questo a sostegno dei lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro e hanno carichi familiari con figli minori o persone non autosufficienti e percepiscono la dote regionale per la riqualificazione personale. La platea complessivamente dovrebbe essere intorno alle 2500 persone. Vedo già dei messaggi al 349-238-6666 sul dato del commercio. Sì, meno 5,6% i consumi delle famiglie italiane negli ultimi tre anni. È un dato praticamente che non si vedeva da sempre. I più penalizzati sono stati i beni durevoli e semidurevoli, col paradosso che spesso abbiamo ricordato che proprio questi beni sono cresciuti, anzi sono calati spesso come prezzo, e comunque non hanno avuto una dinamica di prezzo lira-euro pari ai beni invece al consumo giornaliero, eppure sono quelli più penalizzati, anche perché è più facile rinunciare a un televisore, a un frigorifero, che non al pane o alla spesa quotidiana. E infatti negli alimentari, che pur hanno avuto i rincari maggiori, la contrazione è stata più contenuta. Poi la stessa Confcommercio denuncia che praticamente una quota sempre maggiore della spesa delle famiglie viene dirottata verso quella parte di consumi che può essere definita obbligata, appunto affitto, sanità, assicurazioni. Anche di fonti rinnovabili, come promesso, parleremo. Oggi il rapporto di Legambiente sui comuni rinnovabili per il 2010 segnala come sono già 825 i comuni in Italia che grazie a una fonte rinnovabile, mini idroelettrica, eolica, fotovoltaica, da biomasse o geotermica, insomma producono più energia elettrica di quanta ne consumino. Queste le notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, l'euro si avvicina ai minimi da tre settimane. E questo è il nostro primo tema, non solo sul dollaro, ma ripeto, il dollaro è debole anch'esso per altri motivi, per cui non vedremo grossi movimenti, perlomeno non li vediamo in questo momento. Siamo a 1,35, il grosso scossone c'è stato quando si tentò di scommettere, tentarono i finanzieri, i dei dell'Olimpo di Wall Street, di buttare fuori la Grecia dall'euro, scommisero sul, diciamo, su una crack greco di fatto, e lì l'euro passò da 1,45 a 1,35. Adesso è settimane che resta intorno a 1,35, 1,36 sul dollaro. La novità arriva dalle altre valute, e in primo luogo il franco svizzero, che dopo l'euro e il dollaro comunque la valuta più importante a livello mondiale, con lo yen, ci mancherebbe, e con anche lo yuan secondo alcuni. Comunque l'euro sul franco svizzero è a un minimo storico, a 1,43, anche nei confronti dello yen è assolutamente in indebolimento, a 122 per un euro. E tra l'altro, insomma, Il motivo si chiama ancora una volta Grecia. Si chiama Grecia, ma in questo caso è più tedesco il fronte. Perché? Perché insomma la Francia è il primo paese che vanta dei crediti con la Grecia, 76 miliardi. La Svizzera ha prestato 60 miliardi alla Grecia, poi arriva la Germania con quasi 40 miliardi di euro. L'Italia in realtà ne ha soli 5 miliardi di esposizione, complessivamente le banche europee sono esposte per 235 miliardi, le banche americane solo per 14 miliardi. Cosa interessante però è che se guardiamo i PIGS, i paesi più a rischio senza le due I, quindi Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna, le banche tedesche nei confronti di questi paesi hanno un'esposizione importantissima, 504 miliardi di euro. E siamo a 1000 miliardi delle vecchie lire e quelle francesi per 345 miliardi. E allora la Germania si è messa di traverso, ha fissato tre condizioni fondamentali per varare un pacchetto di aiuti alla Grecia, lo riferisce oggi il Financial Times. Berlino chiederebbe il coinvolgimento del Fondo Monetario Internazionale, l'impegno dei partner europei a adottare regole più rigide per tenere sotto controllo il deficit pubblico e, se necessario, apportare modifiche ai trattati comunitari. Qui riecheggia quella ipotesi avanzata dal cancelliere tedesco Angela Merkel. Beh, potremmo decidere che chi sfora i tetti sui conti pubblici perde temporaneamente il diritto di voto a livello europeo. E oggi il Presidente della Commissione Europea Barroso ha detto, ma insomma anche la cancelliera tedesca Angela Merkel dovrà convincersi che serve una misura sulla Grecia. Però insomma il Ministro dell'Economia tedesco Rainer Brüderle, spero di averlo pronunciato bene, ha detto ai contribuenti tedeschi non può essere chiesto di risolvere i problemi della Grecia. Ultimo aggiornamento, oggi il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung dice no, in realtà la Merkel e il presidente francese Sarkozy stanno cercando una soluzione, casomai utilizzando i capitali del Fondo Monetario Internazionale. E allora il collegamento va per forza con Francoforte, dove c'è il corrispondente del Sole 24 Ore Beda Romano. Beda, buonasera. Buonasera. Grazie anche per averci aggiunto in collegamento al dottor Massimo Papetti, che insomma da sempre opera sul mercato dei cambi. Buonasera a lei. Buonasera a tutti. Allora, Beda, qui la situazione si tinge di colore politico oltre che solo economico, ma insomma, perché la Germania, che pure ha una certa esposizione con la Grecia, è così rigida nel dire no, non vogliamo pagare noi per i danni fatti dai greci? Preferisce un euro debole? Magari sì, visto che esporta. No, non credo che sia un problema di euro debole, credo fondamentalmente che la Germania, che la signora Merkel, sta facendo i conti con i sondaggi dell'opinione pubblica tedesca, e i sondaggi dell'opinione pubblica tedesca in questo momento dimostrano che una netta maggioranza dei cittadini della Repubblica Federale sono contrari a un aiuto alla Grecia. La domanda è perché a questo punto una netta maggioranza dei tedeschi è contraria a un aiuto alla Grecia. Beh, fondamentalmente perché dal loro punto di vista la Grecia non va salvata. La Grecia non va salvata perché il paese non ha rispettato le regole del patto di stabilità e di crescita, perché il paese ha truccato i conti per un certo numero di anni e ha mentito ai suoi partner europei, e poi fondamentalmente perché aiutare la Grecia in questa circostanza, momento in cui almeno ufficialmente il governo di Atene dice di non avere bisogno di liquidità in maniera urgente, bene, aiutare la Grecia in questa circostanza, secondo l'establishment politico tedesco, significa in un modo o nell'altro creare aspettative sbagliate anche nei confronti degli altri, presso gli altri paesi in difficoltà, Spagna, Portogallo e via di seguito. Quindi il tentativo tedesco è quello di non dare l'esempio cattivo. Ecco, io non riesco a capire una cosa però, Beda Romano, visto che tu segui anche molto la Banca Centrale Europea, quindi il fronte diciamo finanziario, europeo della gestione dei tassi di interesse e della massa monetaria. Ma insomma, la Grecia ha un problema a applicare il piano rigorosissimo che ha messo in campo, il blocco delle tredicesime, delle quattordicesime, l'aumento dell'età pensionabile, insomma, ha un problema a abbassare questo 12, quasi 13% di deficit che si è scoperto avere, e allora lì serve un aiuto del Fondo Monetario, oppure non ha problemi e allora stiamo ragionando del nulla? No, la Grecia... Non vi so dire se ha problemi o meno a ridurre il deficit. Certo, le misure presentate sono state definite convincenti da parte della Banca Centrale Europea. Bisognerà vedere come verranno messe in pratica, ma indipendentemente da quello, il vero problema della Grecia in questo momento è rifinanziare il proprio debito. Sappiamo che tra aprile e maggio scadono obbligazioni per circa 20 miliardi di euro, e quindi la Grecia dovrà tornare sui mercati dei capitali a rifinanziare questo debito. Il problema è che in queste circostanze il rischio per il governo greco è di poter sì rifinanziare questo debito sui mercati, ma a tassi di interesse che sono praticamente doppi rispetto a quelli della media europea. E questo è il problema. E questo il caso, il problema che la Grecia vuole tentare di risolvere. Sta cercando di avere da parte dell'Unione Europea quell'appoggio politico e finanziario che le permetterebbe di tornare sui mercati tra aprile e maggio. Senza pagare troppo per avere credito, diciamo. Esattamente. Sì, chiaro, insomma, un po' come succede ogni volta, facciamo l'esempio di una famiglia, del singolo individuo: se tu hai una garanzia, qualcuno che ha una garanzia, ti dà una garanzia, riesci ad andare in banca e chiedere un prestito a tassi ben più vantaggiosi che se non tu dovessi andare praticamente nudo e senza garanzia, o come dicono le banche delle volte, insomma, eventualmente ipoteche possibili. Scrivono alcuni ascoltatori, avete ragione, 500 miliardi di euro, che è complessivamente l'esposizione delle banche tedesche nei confronti di Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna, sono, ci mancherebbe, 1 milione di miliardi delle vecchie lire e non 1.000 miliardi come erroneamente ho detto, chiedo scusa. Adesso arrivo anche a lei, dottor Papetti, però una domanda ce l'ho proprio su questo, Beda Romano. Però è un po' strano che le banche tedesche abbiano comprato a man bassa debito dei PIGS, e in caso specifico Grecia, Portogallo, Irlanda e Spagna. Insomma, lasciamo stare la Spagna, però insomma, prima, quando faceva comodo, gliel'hanno finanziati i debiti a questi paesi. Adesso hanno paura di dare il cattivo esempio. Cioè, noi, le banche italiane, sarà che non parlano l'inglese, non parlano il tedesco, ma sono esposte per una misura risibile nei confronti della Grecia. Non c'è un po' di ipocrisia? Non so se sia ipocrisia o una contraddizione, fondamentalmente. La Germania sta avendo in queste settimane difficili per l'Unione Europea una posizione comprensibile per molti aspetti. La Germania ha una situazione debitoria molto migliore di tanti altri paesi, ha dimostrato di essere oculata e responsabile nei confronti dei suoi partner europei ed è francamente in una posizione giustificabile nel criticare la Grecia. Dall'altro lato però la Germania sta criticando un paese, molto in modo anche arrogante in alcune circostanze, senza rendersi conto che anche la Germania ha dei problemi suoi. Sì, è questo. Ieri abbiamo visto una stima, in cui, se ho ben capito, in cui si diceva: attenzione, la Germania ha in realtà un deficit che è 4 volte superiore a quello ufficiale, perché se somma i Länder e altre forme di debito, non è che la Germania ha un deficit sul PIL, tra l'altro ufficialmente, del 5%, non è robetta da niente. La Francia è messa molto meglio. Allora la Francia potrebbe permettersi di salire in cattedra molto più dei tedeschi, o no? Sì, ma infatti i tedeschi hanno un grande problema, e il problema principale sono le banche. La Germania critica la Grecia e critica la politica economica della Grecia, ma dovrebbe probabilmente riflettere anche alla situazione finanziaria delle proprie banche. Io mi ricordo perfettamente 2 anni fa quando la signora Merkel spiegava all'Europa e al mondo che la crisi americana era una crisi solamente americana e non avrebbe mai toccato né il sistema bancario tedesco né il sistema economico tedesco. E anche la BCE, che stranamente è sempre molto sensibile al pensiero tedesco, sarà che l'edificio è a Francoforte, quindi si respira l'aria della Bundesbank. Prego, Beda, scusa. No, volevo solo concludere che nel frattempo l'economia tedesca ha subito una recessione del 5% l'anno scorso e nel frattempo il governo ha dovuto salvare non poche banche, tra IKB, Upo Real Estate, Commerzbank e via di seguito. Quindi è verissimo, la Germania è in una situazione contraddittoria, dove da un lato attacca la Grecia pensando di essere stata completamente immune dalla crisi economica e finanziaria di questi anni, però dall'altro ha una grave crisi bancaria al proprio interno, con un sistema bancario peraltro molto molto invecchiato, dove praticamente il 50% dei depositi è in mano a banche pubbliche gestite fondamentalmente dalla mano politica e in modo poco efficace. Allora, questa è una domanda che vale per tutti e due, ma la giro perché ce la pongono alcuni ascoltatori. Piccolo inciso: noi non possiamo ricevere telefonate, è inutile che chiediate di essere richiamati perché avete chiamato il centralino. Questo non è un programma, da quando è nato, da 10 anni fa, che ha le telefonate all'interno della sua scaletta. Poi un giorno, se volete, parliamo anche del motivo, ma non mi sembra così interessante. Dicevo, è chiusa questa parentesi, alcuni ascoltatori scrivono al 349-238-6666, ma insomma, se la Grecia fallisse, non sarebbe peggio per le banche tedesche, che hanno 40 miliardi di euro di prestiti dati alla Grecia? Beda e poi il dottor Papetti. Tendenzialmente sì, sarebbe peggio, però non so dire se l'impatto sarebbe veramente importante per le banche tedesche. Non lo so. So per certo che se dovesse fallire la Spagna, le banche tedesche sarebbe molto molto molto peggio. E quindi vi è certamente consapevolezza nell'establishment politico che il problema non è tanto la Grecia quanto quello di evitare un effetto domino, quindi non solo la Grecia ma poi anche altri paesi deboli dell'Unione Monetaria. Allora, dottor Papetti, è su questo motivo, è sulle resistenze tedesche, intanto che si è mosso l'euro, o meglio è sceso l'euro, lo vediamo ancora a quota 1,43 nei confronti del franco svizzero. Ma sì, io sono pronto, è in viva voce per caso? Mi sente, è pronto. No, la sentiamo un po' distante, se è in viva voce le chiederei chiaramente di mettersi non in viva voce perché non abbiamo questi... Però è su questo che si è mosso, ma soprattutto mi interesserebbe capire quest'ultimo ragionamento, cioè... va bene mettere i paletti, ma salvare la Grecia potrebbe anche eliminare il rischio di un effetto domino, dare un messaggio ai mercati, a chi sta comprando franchi svizzero, sta scommettendo sull'euro in ribasso, che c'è un cordone sanitario in Europa per i vari paesi. Prego. Ma sì, è proprio su questo che si sta discutendo, la preoccupazione di una mancanza di una precisa comune presa di posizione su queste problematiche. Questo che è una cosa che sappiamo esiste sin dalla nascita dell'euro, essendo una problematica politica. E di qui infatti vediamo anche gli appelli che ci sono stati anche in questi giorni, proprio per far evidenziare che le istituzioni sono presenti. Vediamo l'ultimo, quello anche di Barroso, che dice, rifacciandomi al discorso che stava facendo prima il dottor Beda sulla BCE, la stanziabilità dei titoli per le operazioni di rifinanziamento, che comunque la BCE interviene anche in caso dovesse intervenire il downgrade di un'ulteriore agenzia di rating. Cioè l'abbassamento del voto della Grecia. Ecco, questo chiaramente significa che si sta facendo di tutto per che le istituzioni siano presenti e dire esiste comunque una comunità europea che è presente. L'effetto domino che si dovrebbe invece creare su lasciare un paese andare a se stesso sarebbe veramente problematico, perché comunque l'effetto domino sarebbe ingestibile. Allora, Beda, vorrei concludere con te su questo, poi chiederò a Papetti dopo le informazioni meteo le previsioni sul mercato dei cambi, perché c'è anche lo yen, c'è l'euro-dollaro, non c'è solo franco-svizzero, ci mancherebbe. Però, Beda, tu, in questa è una domanda veramente più politica, hai la sensazione che si tratti di tattica, cioè la Germania voglia fare a faccia feroce, come dicono a Napoli, per cui, per poi mostrare un po' invece, arrivare a un compromesso, cioè mostrare che lei tiene il rigore, poi si trova un accordo, oppure veramente si sta ricreando una caparbietà, una testardaggine tedesca che ricorda molto la Bundesbank, ricorda molto anche la spocchia con cui accettarono l'Italia, l'ingresso dell'Italia nell'euro. Abbiamo visto che la Germania ha avuto problemi di deficit quanti abbiamo avuto noi nel 2002-2003, ha sforato i tetti, per esempio. Adesso è messa male quanto noi, quanto a deficit, non quanto a debito. E le banche tedesche sono messe peggio di noi, delle nostre, quanto a esposizione nei confronti di prodotti tossici. Quale delle due, secondo te? Credo tendenzialmente che la Germania a un certo punto favorirà una soluzione. Il problema sono due, credo. Prima di tutto è la tempistica. Sulla tempistica non ho le idee chiare. Il secondo problema è trovare una soluzione che aiuti l'Europa e la Grecia e che permetta alla signora Merkel di convincere l'opinione pubblica tedesca. Perché è da settimane, se non mesi, che la Germania va avanti su questa strada con un tira e molla perenne sulla questione greca. E la signora Merkel, nel trovare un accordo alla fin fine con l'Europa, deve pensare alla propria opinione pubblica e deve trovare una soluzione che sia vendibile alla propria opinione pubblica. Questo è un aspetto cruciale, anche perché c'è una spada di Damocle su un eventuale aiuto tedesco alla Grecia. Molte associazioni e pensatoi e centri studi sono pronti a fare ricorso alla Corte Costituzionale se ci dovesse essere un aiuto tedesco alla Grecia, e farebbero ricorso alla Corte Costituzionale spiegando che dal loro punto di vista un aiuto alla Grecia è in violazione dei trattati europei. La signora Merkel vuole evitare a tutti i costi un ricorso alla Corte Costituzionale, perché dal suo punto di vista potrebbe essere un boomerang politico. Sì, io con un titolo possiamo dire, beh, da Romano nel salutarci, che qua si rischia di avere più una questione tedesca che una questione greca, se avanti così? Ah, per molti versi sì. Grazie Beda Romano, il meteo, la pubblicità e poi con Ledro Papetti invece qualche prospettiva sui cambi, sul rapporto di cambio, come si muoveranno secondo voi, che tipo di futures di scommesse vedete proprio nel rapporto euro-dollaro, euro-franco-svizzero, yen-dollaro, euro-yen e basta. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, prima di arrivare al commento di borsa, chiudiamo questo approfondimento sulla Grecia. Devo dire, molto bene Saipem oggi, comunque adesso ne parleremo, più 4% alla fine, di nuovo forte Pirelli, più 2,34%, il FTSE MIB ha chiuso comunque in rialzo di uno 0,6%, come Parigi, praticamente come anche Francoforte e Londra. Euro sul franco svizzero a 1,4290, euro sulla sterlina a 89, euro sul dollaro a 1,35. Insomma, dottor Papetti, che cosa prevedete se appunto la Germania continuerà a mantenere questa linea? E comunque il messaggio che sta arrivando ai mercati di un'Europa che fatica, per essere eufemistici, a trovare una visione comune? Sì, difatti l'Europa che non trova visione comune, questo è lo scenario. Se poi lo posizioniamo all'interno dello scenario globale che stiamo vivendo, ci facciamo un quadro generale. Abbiamo da un lato un'economia americana che è ripresa e quindi con la Fed che inizia a dare segnali di possibili cambi di politica monetaria. Questo che non è possibile in Europa per un problema del debito che creerebbe una situazione esplosiva, e aggiunto al fatto che le posizioni sul dollaro sono terminate, è terminata la possibilità di fare il carry trade, quindi finanziandosi a dei tassi molto vantaggiosi, porta ad un sfruttamento di valute che sono sicuramente considerate di rifugio, in particolare lo svizzero. Abbiamo questo movimento importantissimo nell'ambito della Svizzera proprio perché è considerata bene rifugio, oltre al fatto che comunque è un'economia che in questo momento non sta creando problemi. Nell'ambito dello yen abbiamo anche questo un continuo rafforzamento che sta creando problematiche anche ai mercati finanziari locali e quindi una situazione che si sposta a tutto contro euro. Quello che succederà nei prossimi due giorni con la riunione dei capi di governo sarà un elemento importante per vedere se lo scenario può cambiare oppure creare una situazione difficile per rompere quei livelli importantissimi che abbiamo, per esempio sull'euro-dollaro l'1,3450 è stato considerato un livello molto importante che difficilmente può essere rotto. Okay, ma per chiudere, dottor Poppetti, insomma, da qua a giugno, lei che dove lo immagina, l'euro sul dollaro e l'euro sul franco? Mi dia due cifre. L'euro sul franco continuerà a scendere e presumibilmente anche euro sul dollaro se non cambiano le politiche, se non crea problematica l'indebitamento americano. Per cui potrebbe essere per i nostri esportatori un po' di ossigeno, una boccata d'ossigeno, lo dico a chi scrive e ha ragione, non è che l'euro debole, poi debole, a 1,35 sul dollaro, l'euro è stato anche a 0,80, è stato anche a 0,90, su. Però potrebbe essere un minimo di respiro sui margini per chi esporta, sempre che però la cosa non si aggravi, ossia diventi il termometro di una debolezza europea, di timori sugli altri paesi. A chi mi citava i PIGS? Allora, i PIGS, a me con questi acronimi, vabbè, i PIGS può essere scritto come si scrive in inglese porci, con una I oppure con due I. Nel secondo caso include anche l'Italia, nel primo no. PIGS in questo caso era Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna, e l'esposizione delle banche tedesche appunto di 500 miliardi di euro, un milione di miliardi delle vecchie lire. Grazie al dottor Poppetti per averci illustrato anche quelle che sono le vostre previsioni, visto che su questo voi lavorate nei rapporti cambi. Grazie a Massimo Poppetti e adesso cambiamo tema. Cambiamo tema per passare alla borsa e poi alle fonti rinnovabili e poi ai consumi italiani e infine al welfare per la famiglia. Livia Zancaner, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, con questo stacco invece che la solita campanella della borsa, iniziamo il collegamento. Molto bene Saipem, più 4%, Pirelli più 2,34. Sì, allora Saipem ha realizzato la migliore performance del listino milanese, ha beneficiato del buon andamento del comparto energia e materie prime in Europa. Mm-hmm. Bisogna dire che le azioni appunto dal 25 febbraio hanno guadagnato oltre il 19% ed inizio anno il 19,2%. E questo grazie anche a una serie di giudizi positivi arrivati dal mercato sulle attese per i possibili contratti che la società potrà ottenere soprattutto nel Medio Oriente e nell'Africa del Nord. Poi per quanto riguarda Pirelli, allora Pirelli ha guadagnato il 2,34% e la società sta continuando a beneficiare della pubblicazione dei conti che sono stati comunicati al mercato il 10 marzo. I conti hanno mostrato un utile netto di competenza 2009 positivo per 22,7 milioni e soprattutto un indebitamento dimezzato, e inoltre la società ha annunciato il ritorno al dividendo. Bisogna sottolineare che le azioni dallo scorso 26 febbraio hanno guadagnato il 25% circa. Abbiamo quindi due elementi diversi, fai bene a ricordare comunque il progresso di Saipem che continua, devo dire anche di Pirelli. ST Microelectronics più 2,2, CIR più 1,70, Ansaldo più 1,5%, Exor più 1,3 come Finmeccanica e Atlantia, l'1,2 lo guadagna Mediaset, l'1,1 Generali e anche Autogrill, ma anche Campari e Fiat, l'1% lo guadagna Azimut. Buzzi Unice meno 3%, Unipol meno 1,30%, Ubibanca meno 1%, Telecom meno 0,90%, Geox meno 0,80%, come Intesa San Paolo, Impregilo meno 0,60%. Allora oggi, adesso do la linea al traffico, Mondadori ha diffuso i dati, utile pari a 34 milioni di euro nel 2009, che comunque per il mondo dell'editoria non è male, anche se il calo è del 64% per Mondadori rispetto al 2008. Il consiglio di amministrazione comunque ha deciso di non distribuire dividendi. Il fatturato di Mondadori è arrivato a 1,540 miliardi, cioè è sceso a 1,540 miliardi, in calo appunto del 9%. Traffico e poi gli altri titoli, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Livia Zancaner, vi prego di fare domande inerenti, diciamo, alle borse, non aspetti privati. Livia Zancaner, tra chi ha perso? Buzzi Unice meno 3%, Unipol meno 1,30%, Ubibanca meno 1%, Telecom meno 0,90%, dicevamo. Tra l'altro devo anche dare i dati di Edison, o meglio, più che dati, sono praticamente elementi, commenti fatti oggi da Umberto Quadrino, mi sto legato di Edison, ha detto siamo ben attrezzati nel 2010 per ripetere i risultati del 2009, questo anche alla luce dei dati dei primi due mesi dell'anno, non avremo bisogno di nessun aumento di capitale. Buzzi Unicem soprattutto, ma in realtà un po' di difficoltà anche su Telecom e Intesa. Sì, allora Buzzi Unicem ha perso il 3,07% dopo la pubblicazione dei conti del 2009 ed è stata penalizzata in particolare dalle previsioni negative per l'anno in corso e dalla significativa flessione del dividendo. La società ha infatti mostrato un utile netto in calo del 64% e ha stima per il 2010 risultati operativi e risultato netto in calo. Inoltre il CDA ha proposto un dividendo di 0,18 euro, che è proprio pari alla metà rispetto alla cedola distribuita lo scorso anno, che era di 0,36 euro. La saga Telecom? Allora, Telecom Italia risente in particolare dell'ipotesi di un nuovo rinvio dell'approvazione del bilancio, nel senso che allora è stato convocato il CDA, che si terrà giovedì appunto 25 marzo come anticipato, per esaminare i conti 2009 e l'aggiornamento del piano industriale triennale, però secondo indiscrezioni la società e alcuni consulenti starebbero ragionando sul possibile slittamento dell'approvazione del bilancio, considerando anche che il 7 aprile si terrà l'udienza in Camera di Consiglio sul commissariamento di Sparkle. Comunque dalla società non sono arrivate notizie ufficiali e in ogni caso si tratta solo di ipotesi, di ragionamenti che probabilmente per il fine settimana verranno poi ufficializzati. Allora, ultimo titolo, Cell Therapeutics, ieri sospeso. Ripeto, chi scrive al 349-238-6666, non sono tenuto dalle informazioni su chi fa i collegamenti. Per Radio Core, Cell Therapeutics, meno 36%, che sta succedendo sul titolo? Visto che ci sono, dico anche che il miglior titolo è Montefibre sui risparmi non convertibili, più 12, Mittel bene, più 7,7, bene anche Sogefi, più 6,56, Classe Editori, più 6, Montefibre anche sulle ordinarie, più 5,70, Safilo, più 5,60. Peggior titolo appunto, Cell Therapeutics, che succede? Allora, praticamente ieri sera, quindi a mercati chiusi in Italia, è arrivato il no del comitato consultivo dell'autorità americana Food and Drug Administration alla commercializzazione del Pixantrone, che è il farmaco di punta della società. Sul Nasdaq infatti ieri il titolo ha perso oltre il 48% e oggi appunto è arrivata la reazione del mercato anche in Italia. In ogni caso la società ieri nel comunicato ha spiegato che l'autorità americana non è tenuta ad accettare i suggerimenti del comitato consultivo e comunque deciderà se approvare o meno il farmaco entro il 23 aprile. Bene, a questo punto Livia, grazie e buona serata a nome mio, a questo punto anche di molti ascoltatori. Grazie tanto, anche tanto a voi. Non divento geloso e cambiamo tema. Parliamo di fonti rinnovabili, di energie rinnovabili, lo facciamo adesso a cavallo, poi dopo anche il GR, visto che poi toccheremo il tema del welfare delle famiglie, dei consumi. Insomma lì sono dolori, cerchiamo di tirarci su. Allora, la diffusione delle rinnovabili. Oggi a Roma è stato presentato da Lega Ambiente il rapporto Comuni Rinnovabili 2010. E insomma viene fuori un'Italia che è sotto traccia, che non fa notizia purtroppo, che non è scandalistica, che non fa polemica, ma insomma 825 comuni italiani che grazie a almeno una fonte rinnovabile producono in questo momento più energia di quanto non ne consumino. E comunque su 6.900 comuni, l'86% totale, è già installato almeno un impianto per produrre energia rinnovabile. Sono più di mille in più rispetto all'anno precedente. 6.300 i comuni con un impianto solare fotovoltaico, 4.000 i comuni con un solare termico e 297 comuni con impianti eolici, 800 con quelli con impianti mini idroelettrici, 181 quelli con impianti geotermici, 800 i comuni in Italia che ricorrono alle biomasse. Allora facciamo anche i nomi dei virtuosi, visto che ieri abbiamo fatto i nomi dei viziosi quanto a sanità, si parlava più che altro delle regioni. Allora, i comuni con impianto solare fotovoltaico, in testa della classifica il comune di Craco, provincia di Matera, praticamente 542 kW ogni 1000 abitanti prodotti con energia solare. Il solare termico, il comune di Fie allo Schillar, provincia di Bolzano, 1152 metri quadri ogni 1000 abitanti. E allora la nostra Cristina Carpinelli ha intervistato il sindaco di Craco, appunto il comune in provincia di Matera, leader in Italia per l'utilizzo del fotovoltaico, si chiama Giuseppe Iacerchia. Noi abbiamo avviato un'iniziativa per la valorizzazione del territorio che vede nell'energia un fattore di sviluppo locale, decidendo che le risorse rivenienti, diciamo, attraverso la valorizzazione dell'energia, sia quelle ordinarie per i comuni, sia quelle che noi riusciamo a mettere in campo direttamente noi, realizzeremo 200 kW di scambio sul posto per le esigenze del comune e stiamo promuovendo dei condomini fotovoltaici anche per il settore privato, per le abitazioni. Se è vero che l'energia è un business, perché noi abbiamo un sistema di agevolazioni molto forte, cui utili secondo noi vanno reinvestiti per lo sviluppo integrato del territorio, uno sviluppo fondato su innovazione e beni culturali. Molte aziende agricole, che tra l'altro sono condotte da persone anziane ormai, molti di questi agricoltori hanno visto una speranza in questa iniziativa, perché vivono una crisi terribile che bisogna cambiare, bisogna fare qualcosa, perché sennò corrono il rischio che neanche le loro tradizioni possano rimanere. Hanno visto in questa iniziativa un'opportunità. E bravi a questi comuni, a partire da quello in provincia di Matera, dottoressa Maria Rosaria Di Somma, direttore generale dell'Unione Produttori di Biocarburanti. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Allora, un minuto di pazienza, anzi qualche minuto in più perché c'è il nostro GR, e poi con lei vorrei capire come sta andando invece, visto che lei rappresenta l'associazione di Confindustria che tutela i produttori italiani di biocarburanti, come stanno andando i biocarburanti, biodiesel, bioetanolo, che insomma non sono bestemmie, sono proprio alternative all'autotrasporto. 349-238-6666 per i vostri sms, il GR. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora continuiamo il nostro approfondimento sulle fonti rinnovabili, comunque le fonti alternative di energia. Poi andiamo ai consumi degli italiani e ai problemi di welfare delle famiglie italiane. E allora si diceva fonti rinnovabili e biocarburanti. Ci hanno scritto nel frattempo alcuni ascoltatori al 349-238-6666, ma insomma l'utilizzo è ancora troppo basso in Italia delle varie fotovoltaico, solare termico, eolico. Allora, intanto era giusto secondo noi premiare, ricordare i comuni virtuosi, e l'abbiamo fatto l'elenco con i migliori. Poi non è proprio così vero, cioè sul fotovoltaico per esempio noi abbiamo 1.600.000 metri quadri di pannelli installati, che sono gli stessi della Francia e un po' superiori a quelli della Spagna. Certo, la Germania stacca tutti con 11 milioni, quasi 10 volte più di noi. Sul solare termico siamo indietro, sia rispetto a Germania e Spagna, 750 megawatt in Italia contro 5.300 in Germania e 3.400 in Spagna. E sull'eolico, insomma, siamo messi come la Francia, 5.100 megawatt, la Spagna ne ha 19.000, cioè 4 volte noi, la Germania 25.000 di megawatt prodotti dall'eolico, appunto 5 volte noi. Comunque, dottoressa Di Somma, lei che è direttore generale dell'Unione Produttori di Biocarburanti, insomma, è uscito in Gazzetta Ufficiale lunedì un decreto che obbliga a immettere in consumo quote crescenti di biocarburanti dal 2010 al 2012, e già oggi quando facciamo benzina, molti non lo sanno, ma mettiamo nel serbatoio una percentuale di biodiesel o bioetanolo. Perché però voi siete molto preoccupati? Siamo preoccupati perché il biocarburante sono l'unica fonte rinnovabile che non gode di incentivi. l'Italia ha un grossissimo capacità produttiva, un grossissimo potenziale, è al terzo posto in Europa, quindi c'è un'industria molto sviluppata in questo settore, però purtroppo è il fanalino di coda nei consumi. Lei prima parlava di numeri ed è importante perché certamente le fonti rinnovabili poi dovranno raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ha fissato Bruxelles nella direttiva 2020 e i biocarburanti che si devono confrontare col prodotto fossile perché i biocarburanti si utilizzano solo nei trasporti a differenza del fotovoltaico e dell'eolico che invece vanno nel settore dell'energia elettrica. Basti pensare che di fronte a un consumo di 40 milioni di tonnellate di prodotto fossile per autotrazione tra benzina e gasolio, nel 2009, grazie a questi decreti che poi hanno queste percentuali leggermente in aumento, si sono utilizzate soltanto 1 milione di tonnellate di biodiesel, perché ancora ad oggi il etanolo non viene utilizzato nella benzina. Come lei diceva giustamente, sia la macchina a gasolio, gasolio che la macchina diesel, quando mette il gasolio ha un 7% di biodiesel. Anche su questo noi per esempio ci piacerebbe che alla pompa di benzina il distributore mettesse a conoscenza l'utente che lì dentro c'è del prodotto ecologico che riduce le polveri sottili, che riduce le emissioni di CO2. Mi faccia capire una cosa però, dottoressa, perché voi dite che le misure prese, appunto l'obbligo a immettere un consumo di quote crescenti di biocarburanti dal 2010-2012 avvantaggia solo i grossi soggetti internazionali, l'importazione dall'estero e non i produttori italiani? Ecco, perché li conduciamo sempre agli incentivi. Negli altri paesi le fonti rinnovabili, i biocarburanti godono di incentivi, godono di soprattutto di riduzioni di quello che è il carico fiscale, per cui negli altri paesi questi prodotti che hanno queste aziende, queste imprese che hanno già dei costi inferiori di produzione rispetto all'Italia beneficiano anche di questi incentivi e non è che li utilizzano nel loro paese, ma portano questi prodotti, vengono esportate ed introdotte in Italia. Quindi anche col provvedimento che lei citava, che ha portato fino al 2012 un incremento dello 0,5% per anno di obbligo di utilizzo, non sta agevolando le imprese che producono italiane, che producono biodiesel o di bioetanol, ma stanno soltanto agevolando gli importatori, quei soggetti terzi che producono il biodiesel in Argentina, in Canada, in Malesia, le quali hanno costi minori, capacità abbondante di produzione, hanno incentivi fiscali e quindi il prodotto che arriva in Italia pensi che costa meno dell'olio che è la materia prima per fare biodiesel, per cui le aziende senza incentivi, senza un intervento del governo italiano che metta anche un po' un freno a queste invasioni concorrenziali di prodotti, le industrie, molti impianti stanno addirittura chiudendo perché non sono in grado di competere. Sì, e dico, su questo bisognerebbe fare anche una riflessione, visto che si parla sempre di concorrenza sleale, però attenzione perché nel frattempo i produttori italiani stanno tagliando gli investimenti e anche licenziando, così come alcune aziende hanno già chiuso, insomma un aiuto, perlomeno non farsi del male da soli avendo o comprando dall'estero biocarburante prodotto con grandissimi incentivi da parte di quei paesi, insomma, no? Le compagnie petrolifere che sono i soggetti obbligati che devono miscelare perché i biocarburanti non vengono utilizzati da soli, chiaramente comprano i biocarburanti laddove costa di meno, è chiaro, loro devono ottemperare all'obbligo, ma lo ottemperano secondo quello che sono Le logiche di mercato, se quando hanno incentivi vanno a comprare dove gli incentivi ci sono. Dottoressa, la ringrazio perché era importante sottolineare anche le difficoltà paradossali di un settore che invece siamo d'accordo, nessuno immagina di andare tutti quanti a biodiesel, però è il tema, vedo alcuni che scrivono sul tema dell'acqua, insomma, si può avere una quota crescente che non cambi comunque l'assetto, diciamo, dell'agricoltura italiana e soprattutto è sbagliato farsi del male da soli e comprare da fuori biocarburante prodotto con incentivi all'estero. Grazie alla dottoressa Maria Rosaria Di Somma, direttore generale dell'Unione Produttori di Biocarburanti. Adesso restiamo in tema di consumo per commentare i dati della Confcommercio, che ha diffuso l'analisi degli ultimi 40 anni e oggi dell'ultimo triennio. Insomma, il biennio 2008-2009 insieme al 93, al 1993 ha segnato la peggior caduta dei consumi in Italia. La spesa delle famiglie è diminuita dell'1,8%, sommato al meno 0,8% del 2008, fa appunto del biennio che si è appena chiuso uno dei momenti più difficili, insieme al 1993, per la spesa reale delle famiglie italiane. Con dati anche interessanti, si è ridotta per la prima volta dal 1970, da quando esiste la serie storica, la spesa per servizi. In calo anche le comunicazioni. E la spesa per alberghi, bar e ristoranti meno 3%, vestiario meno 4%, mobili e ristrutturazioni meno 8%, comunicazioni meno 5%. Però c'è qualcosa di più in questo rapporto della Confcommercio, ecco perché ringrazio per averci raggiunto in collegamento il direttore del Centro Studi, dottor Mariano Bella, buonasera. Buonasera. Dobbiamo andare sul traffico, però una battuta la vorrei prima da lei. Voi parlate di un travaso, cioè questi consumi si sono ridotti per una difficoltà oggettiva, l'economia va male, ci sono i cassi integrati, le aziende fatturano meno, ma c'è stato anche un travaso verso le spese obbligate? Beh, sì, questo è un fatto che storicamente purtroppo nel nostro paese esiste, cioè affitti, assicurazioni, banche, energia, combustibili, gas, tutte quelle spese che sono sostanzialmente obbligate, su cui non è che il consumatore sceglie, bisogna pagare l'affitto e amen, bisogna pagare le assicurazioni obbligatorie e amen. Ecco, tutti questi mercati sono meno liberalizzati rispetto agli altri, quelli che chiamiamo dei consumi commercializzabili, hanno un tasso di inflazione mediamente più elevato e quindi traggono risorse, drenano risorse che potrebbero invece andare a settori sotto la libera scelta dei consumatori e questo riduce poi complessivamente il benessere delle famiglie. Dottor Bella, è abbassare i prezzi e amen? È abbassare i prezzi, se in questi settori ci fosse la possibilità di liberalizzare un po' di più, pensiamo alle utility, c'era un decreto qualche tempo fa in Parlamento, poi insomma un po' si è perso. No, ma dico abbassare i prezzi del commercio, però siccome la risposta mi rendo conto che è articolata, facciamo una cosa, il traffico, poi la risposta del direttore del Centro Studi di Confcommercio e poi arriviamo anche al welfare delle famiglie italiane. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Dunque, al direttore del Centro Studi di Confcommercio, la domanda: come contrastare il calo che voi avete fotografato, fermo restando che c'è una congiuntura internazionale e che aumentano le spese obbligate, come lei ricordava, gli affitti, l'assicurazione, ci sono costi di servizi poco liberalizzati, le liberalizzazioni sono una delle grandi riforme da fare in questo paese. Comunque, come fate a contrastarlo voi come commercianti, le avevo detto in maniera anche un po' provocatoria, e abbassare i prezzi del mondo del commercio per invogliare l'acquisto? Però qui, dottore, c'è un equivoco. Eccoci. In un settore liberalizzato i prezzi li fa il mercato. Voglio fare un esempio molto semplice. Se prendiamo gli ultimi 40 anni, il deflatore, diciamo, dei consumi, i prezzi, la variazione dei prezzi, noi abbiamo che sugli alimentari, fatto 100 il 1970, molti ascoltatori non c'erano, 40 anni fa, la crescita è stata di 14 volte sugli alimentari. Complessivamente, su tutti i consumi, la crescita dei prezzi è stata di 19 volte, sugli obbligati è stata di oltre 24 volte, cioè l'inflazione, il costo della vita che noi poi andiamo, col quale ci confrontiamo quotidianamente, non è un contributo positivo dei beni commercializzabili, quelli che passano dai negozi, ma il contributo positivo all'inflazione viene fornito dagli altri settori poco liberalizzati. Vogliamo guardare ai nostri giorni? Servizi finanziari, questo è l'indice dei prezzi al consumo dell'Istat, non è l'ufficio studi della Confcommercio, fatto 100 il 95, quindi 15 anni fa, i prezzi sono raddoppiati, il prezzo medio, degli affitti è cresciuto il 60%, mediamente i prezzi dal 95 sono cresciuti del 40%, ancora una volta i consumi che passano dai negozi hanno dinamiche inflazionistiche largamente inferiori alla media e soprattutto inferiori a quelle dei consumi obbligati. E questo è il punto che dobbiamo accettare. Il mercato fa i prezzi e se non c'è il mercato li fanno i monopolisti. Sì, d'accordo con lei, a parte forse il passaggio lire-euro, ma non voglio tornare indietro di 9 anni, però ha assolutamente ragione nel dire che poi, siccome fatto 100 a questo punto la busta paga, e se ti aumentano costi obbligati come l'affitto i servizi, luce, gas, luce, acqua e gas, e poi le spese per il mutuo, le spese finanziarie, tu chiaramente da qualche parte vai a tagliare. Era solo un invito anche a vedere magari qualche concorrenza in più. Devo dire che nell'ultimo anno e mezzo, lo dice la stessa Istat, attraverso le offerte promozionali, gli sconti, i prodotti diciamo di marca, non di marca, insomma nel mondo del commercio, soprattutto dei beni di prima necessità, un raffreddamento c'è stato, questo è innegabile. Grazie anche al direttore del Centro Studi della Confcommercio, Mariano Bella. Ultimo tema di questa puntata, sempre collegato ai consumi, il rapporto su come stanno le famiglie italiane. 4.000 interviste raccolte poi nel rapporto famiglia del Centro Internazionale di Studi della Famiglia. Costo reale dei figli, il costo mensile di mantenimento è teoricamente di 317 euro, però il costo mensile di accrescimento, che misura l'esborso totale per ogni singolo figlio, è di 800 euro al mese, oltre 9.000 euro l'anno. E il rapporto poi è tra appunto spesa sociale a favore della famiglia. Adesso io dico una cosa, in questo paese si parla sempre della famiglia, ma insomma la famiglia che deve ancora nascere o la famiglia che sta per estinguersi, ma mai della famiglia che è in vita, perché insomma noi spendiamo l'1,1% del PIL in spese di welfare contro il 2,5% della Francia, cioè due volte, la Francia al doppio, e il 3,2% della Germania, tre volte tanto. E poi il legame si crea anche con la natalità, dunque il 53% delle famiglie in Italia è senza figli, il 22% ha un figlio, il 20% ne ha due e il 4% ne ha tre. Dottor Francesco Belletti, direttore del Centro Internazionale di Studi della Famiglia, buonasera. Buonasera a voi. Voi avete dato molti dati, numeri e cifre, la domanda però è una e una sola. Il rapporto tra welfare, cioè tra politiche per la famiglia, e numero di figli. Beh, diciamo che è un argomento necessario ma non sufficiente, cioè per la scelta di avere figli ad una famiglia, ad una giovane coppia, non bastano politiche, non bastano soldi, però queste scelte politiche dimostrano che la nascita dei figli è un bene anche per il paese, anche per la collettività. Invece le famiglie si sentono sole, quindi a proprio rischio e pericolo fanno figli, e quindi quei 10.000 euro vengono a pesare esclusivamente sul bilancio familiare. Le soluzioni, purtroppo abbiamo un paio di minuti, ma le soluzioni, si parla molto del coefficiente familiare, cioè tassare una persona non in base al suo singolo reddito, ma al fatto che lo stesso reddito può essere a mantenimento dei figli oppure uno può essere single. Noi pensiamo che ci debba essere un fisco a misura di famiglia, perché è chiaro che 50.000 euro per un single sono un ottimo reddito, 50.000 euro per 6 persone sono un reddito appena sufficiente, e purtroppo il nostro sistema fiscale non fa equità tra queste due condizioni, fa pochissima differenza, e questo genera un'iniquità fiscale. In sintesi, noi chiediamo che il fisco sia giusto, non chiediamo promozioni o privilegi speciali per le famiglie, chiediamo che ogni persona paghi in funzione del suo reale reddito disponibile, come dall'articolo 53 della Costituzione. Quindi bisogna vedere la famiglia per fare un fisco equo. Sì, obiettivamente insomma, in altri paesi questo ha funzionato, e ha funzionato anche su un valore intangibile apparentemente, come appunto il numero di figli in un paese. Penso alla Francia, lo citiamo sempre come esempio, ma insomma la Francia ha dei tassi di crescita della natalità simili alla Scandinavia grazie alle politiche welfare. La spesa sociale, ribadisco, chi ce lo chiede, è l'1,1% del PIL. Voi avete anche scoperto che le famiglie che arrivano con grandi difficoltà sono 16%, il 37% arriva con qualche difficoltà a fine mese. Torneremo a parlare con lei perché è un tema che ci sta molto a cuore. Grazie intanto per averci illustrato in sintesi il rapporto al direttore del Centro Internazionale di Studi della Famiglia, Francesco Belletti. E allora andiamo in chiusura, oggi la puntata era molto densa, ma torneremo su questi temi, così come sul tema della scuola. Abbiamo ricevuto moltissime mail e sms, molti dicono ma insomma si portavano i fogli, si pagavano la carta igienica anche una volta, non vuol dire nulla, troviamo comunque inaccettabile che su una scuola pubblica, di cui uno già paga le tasse, deve pagare i fogli, la carta igienica, i fazzoletti, le penne e quant'altro. Va bene, 349-238-6666 per i vostri sms anche domani. Per ora da Sebastiano Berisoni è tutto, vi lascio la nostra programmazione, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.